Nel video della settimana scorsa abbiamo visto quali sono quattro atteggiamenti da non adottare quando ci troviamo davanti a una persona arrabbiata. Già il fatto di avere consapevolezza del suo stato emotivo ci permette di collocarci su un altro piano rispetto a lei per poter adottare delle strategie che la aiutino a vivere e a superare quel momento di rabbia. Ecco quindi quattro atteggiamenti che potranno aiutarti quando ti trovi di fronte a una persona arrabbiata. E certo, poi starà un po' a te capire come dosare questi quattro atteggiamenti, starà alla tua sensibilità, alla conoscenza e alla confidenza che hai nei confronti di questa persona. Primo, in certi casi potrebbe essere utile sottrarsi completamente al dialogo, lasciare la persona sola, lasciare che la rabbia sbollisca un pochino, specialmente in caso ci accorgessimo che anche dentro di noi stanno nascendo emozioni particolarmente forti che, come abbiamo visto nel video della settimana scorsa, potrebbero non aiutare la persona, anzi potrebbero far crescere ancora di più la sua rabbia. Altre volte potrebbe essere utile rimanere in silenzio di fronte a lei, lasciando che si sfoghi senza rispondere al suo sfogo, specialmente se la persona è arrabbiata proprio con te. Potrebbe essere che dopo un pochino che tu rimani in silenzio, lei esca con frasi di questo tipo: «Ehi, ma mi stai ascoltando oppure no?» Ecco, quello potrebbe essere proprio il momento in cui iniziare ad intavolare un dialogo costruttivo, perché in quella domanda potrebbe essere successa una cosa molto importante nella persona che era arrabbiata. Potrebbe essersi aperta una breccia. Cosa intendo dire? Quando una persona è arrabbiata, è tutta concentrata su di sé, sulle proprie emozioni, sul suo stato emotivo interiore, sulla propria arrabbiatura. Di fronte al tuo silenzio, se la persona arriva a chiederti «Ma mi stai ascoltando oppure no?», è come se in quel momento finalmente si è accorta di te. Ha smesso di pensare solamente a sé, al suo stato emotivo, e si è aperta una breccia nella quale, ecco, adesso forse hai possibilità di agire in qualche modo. In quel momento è come se si fosse interrotta la comunicazione a senso unico che contraddistingue spesso una persona quando è arrabbiata. Pensaci, quando siamo arrabbiati facilmente inondiamo l'altro delle nostre parole, degli nostri stati d'animo, della nostra arrabbiatura, delle nostre emozioni. In quel momento invece la persona si mette in ascolto in un certo senso e si chiede se tu la stai ascoltando, e quindi ti fa questa domanda in cui si apre a ricevere qualcosa da te. Quindi in quel momento, allora se è il momento opportuno per iniziare a dire qualcosa, che cosa potresti dirle? Eccoci quindi al punto che mi sembra più importante. Quando siamo arrabbiati, in fondo, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una persona che discuta alla pari con noi e che argomenti in altro modo le cose che gli diciamo in modo da convincerci? O piuttosto, in fondo, quando siamo arrabbiati, abbiamo soprattutto bisogno di sentirci compresi? Ecco, nel momento in cui ti sembrerà giunta l'occasione per poter finalmente dire qualcosa, non perdere questa occasione di fargli capire che lo stai capendo, che sei connesso con lui. Cosa ancora più importante, tenta di metterti in contatto con il bisogno non soddisfatto che sta alla base della sua tempesta emotiva di rabbia. Se la persona di fronte a te è arrabbiata con un'altra persona, potresti quindi dirgli una frase di questo tipo: quindi sei arrabbiato perché questa cosa che è successa ti ha fatto sentire male, ti sei sentito triste e frustrato? Altro esempio, in coppia lei potrebbe essere arrabbiata con lui e allora lui potrebbe provare a dirgli così: quando ho fatto quella cosa ti sei sentita triste perché avresti bisogno in certi momenti che ti facessi capire di più che ci tengo veramente al nostro rapporto. Cosa intendo dire? Quando noi siamo arrabbiati, molto spesso spendiamo moltissima energia per far capire all'altro anche il nostro punto di vista. Ma questo non funziona. È importante fargli invece capire che noi comprendiamo il suo punto di vista E questa comprensione potrebbe essere proprio il ponte sul quale finalmente sarà possibile incontrarsi. Facci caso, non appena la persona si sentirà capita da te, la rabbia svanirà come d'incanto. E fai anche attenzione al suo comportamento non verbale. Vedrai che certi tratti tipici della rabbia, come per magia, in un attimo svaniranno. Se davvero sei riuscito a fargli capire che hai compreso il suo stato emotivo, vedrai che la persona subito si rilasserà, si calmerà, tenderà a lasciarsi un po' andare, inizierà a parlare più lentamente, il suo respiro si farà più regolare, perché in fondo, dietro alla rabbia, molto spesso, se non sempre, c'è una profonda esigenza di sentirsi capiti. In tutto questo è molto importante fare attenzione anche al proprio comportamento non verbale, far capire con il nostro sguardo, il nostro approcciarci, il nostro avvicinarci piuttosto che leggermente allontanarsi. Tutto deve far capire alla persona di fronte a noi che in qualche modo stiamo cercando di andarle incontro, di capirla, di comprendere il suo stato interiore. Quarto, cerca di prestare infine attenzione anche alla tua voce. Sì, la voce è un fattore non verbale molto importante, capace di trasmettere rabbia piuttosto che tranquillità, capace di comunicare la comprensione. Cerca con la tua voce di tenere un volume basso, di non urlare, di parlare piano. Cerca anche di tenere un tono più basso. Per farti capire, cerca di pensare come parli ad un bambino nel momento in cui tenti di farlo addormentare, oppure se è molto agitato tenti di tranquillizzarlo. Ecco, usa proprio quel tono di voce che useresti con quel bambino in quella situazione. Con questo non intendo dire che devi trattarlo come un bambino, né tantomeno che devi sminuire quello che sta vivendo. Intendo dire però che il tono della nostra voce può veramente aiutarci a comunicare la nostra comprensione. Un tono basso, un volume basso, potranno essere quel getto di acqua fresca che aiuterà la persona a sentirsi compresa, a sentirsi capita nei suoi bisogni e l'aiuterà a spegnere quella tempesta, quell'incendio emotivo che sta vivendo. Fammi sapere nei commenti che ne pensi, lascia un mi piace se il video ti è piaciuto e, continua a ricordartelo, iscriviti al canale o alla pagina Facebook se ancora non l'hai fatto. E su YouTube attiva anche la campanella per non perdere le notifiche per i prossimi video che arriveranno.